Benvenute a tutte e a tutti all'undicesima puntata primaverile di Eclettismi Spaziali Sototropicali. Oggi purtroppo l'ospite fisso a sorpresa non è potuto venire, o meglio aveva un incontro con le sue innumerevoli reincarnazioni, e qui in studio non ci entrano tutti. È passato quasi un mese dall'incontro che ho avuto nel sogno con l'alieno El, e vi devo confessare che dopo l'inoculazione di El mi sta arrivando in voglia. Ora mi scarico un'app per incontri, ecco, Grinzer per soli uomini, perfetto. Ma cazzo, mo devo dire quanti anni ho, quanto sono alto, se gradisco foto VM e se le gradisco subito, dopo un po', mai. Poi devo dire la tribe, ma che è sta tribe? Qual è il mio fetish? Madonna, è troppo complicato, aiuto. A me mi scende così. Ah ecco, bravo, dai, mi faccio aiutare dall'assistenza per fare questo profilo. Salve, buongiorno, la disturbo? No, ma quale disturbo, si figuri, sono Carlo, l'assistente speciale di Grinzer. Carlo? Va, con la U. Ma che succede? Ma sento rumori strani dietro. Sì, certo, no, ma guardi, deve considerare che sono in smart working, ecco. Non mi pare sia solo, giusto? No, non sono solo, certo che no, ma guardi un po' questa cosa. Dica. Allora, guardi, io sono in smart working, certo, no? Ecco, ma potevo scegliere il luogo dove andare in remoto. Ma mi sa che io sappia, non si può scegliere il lavoro a proprio piacimento, perché me ne vado alle Maldive. Ma che c'entra, mi lasci finire, guardi. Abbiamo chiesto il parere all'ufficio legale, scusi. Ma che dice l'ufficio legale? Mi lasci finire, guardi. Ma scusi. No, guardi, mi lasci, insomma. Sì, ma... Giù le mani, insomma! Ma scusi, per carità! Mamma mia, sembra Polipower uomini. Ma uomini, perché? Scusi, lei che è? Innanzitutto grazie per questa domanda. Sa, non me lo chiede mai nessuno, certo non importa il proprio orientamento, per carità, è importante la persona, ma guardi, ci tenevo proprio a rispondere a questa domanda. Ma non è un'intervista, insomma. No, ma guardi che ci tengo proprio, guardi, mi lasci fare, guardi, grazie, ecco, appunto lo dicevo. Ecco, allora cosa sono? Io sì, ecco, non è che sono un uomo, ecco, sono, direi, sono cis, gay, certo qualche sfumatura, bisex, a volte trans, queer, lesbo, queer, trans, gay, cis, poi passo dar via, vabbè, prendo l'imprevisto, di probabilità, vabbè, insomma, faccio prima, insomma, dirle cosa non sono, ecco, io non sono sicuramente cis e pro patriarcale. che poi non vuol dire niente naturalmente, perché come dire che non sono fascista, ma boh, grazie al cazzo. Comunque insomma, che vuoi sapere? Mi sta confondendo, c'è un po' di mal di testa. Comunque torniamo, di che stavamo parlando? Dello smart working, mi dica. Smart working, certo, come le dicevo, potevamo scegliere insomma un luogo dove fare lo smart working, e io ho scelto uno smart working bellissimo, guarda. E quale? Ah, sauna. Ho scelto la sauna. Sauna? Solo che... sì, guardi. Ho scelto proprio la sauna, ma il problema è che anche loro sono in smart, è tutto il loro personale. E che ha fatto, quindi tutto il loro personale si è trasferito a casa di Tony, il barista della sauna, che c'ha la vasca grande, si può collegare bene, wifi, cose, insomma, e ci sono andata pure io, ecco. Annata, vedo che dal neutro o neutru inizia a declinarsi al femminile. Ma gliel'ho detto, io sono cis, gay, ma anche trans, queer, pronto sì. Carlo, ci sei? Ai. Quindi tutti in vasca per lo smart working, ho qualche dubbio che si possa fare, però se ve l'ha detto l'avvocato... Se può fare. Sì. Senta, invece volevo chiederle innanzitutto, se sta bene, dico, la pandemia, virus, vaccini, cose, sta bene, sì? Ma che gentile... Exciting and new, come aboard, we're expecting you. Guardi, bene, sto veramente bene, grazie poi tanto per essersi interessato a me, la mia salute, ecco, la pandemia, davvero grazie, guardi, la trovo una cosa che denota un'estrema sensibilità da parte sua. Dove abita? No, era un convenevole, una cosa gentile da dire. Basta. Gentile, sì, la parola giusta, guardi, mi sta commuovendo ricevere una telefonata poi come la sua, dopo tutte le telefonate, i messaggi sempre uguali che ricevo dagli utenti, ragazzi che si lamentano. Scusi se la interrompo, ma la sto chiamando per lavoro, comunque qua abbiamo da portare avanti una trasmissione. Ma che carino, sì. Guardi, lei è davvero carino, guardi, veramente, la trovo... non so come dire, insomma, lei riesce a trovare un attimo anche al lavoro per pensare a me. Ma che romantico. Attivo passivo, scusi? Cosa? Scusi? No, dico. Sì, lei è versatile. Beh, d'altronde è una persona generosa come lei. Dove abita, scusi? No, ma Carlo, forse mi ha frainteso. XL o XXL? Carlo, torniamo a noi. Cribi, mi diceva che la chiamano in molti per l'assistenza su Grinzer, no? Perché lei è questa, sto chiamando alla fine per questo. Sì, infatti. Ma che tipo di problematiche affrontate? Allora, guardi, considero così, per rispondere alla sua domanda, il 97% delle richieste di intervento urgente sono, ecco appunto, delle richieste di intervento urgente per l'approvazione dell'ultima foto. Ah, quindi avete una policy? Ma certo, il 78% delle foto poi, ecco, che non compaiono sul profilo pubblico sono foto penis. Pensi che arrivano delle richieste disperate di approvazione delle foto penis implorando, e vengono pubblicate prima che l'altro gli risponda. Guardi un lavoro, guardi, mamma. Carl, foto penis? A fotocazzo, dottor. Com'è che chiamate, insomma, a fotocazzo? Ah, ok. Certo, la foto del pene. Insomma, riceve molte richieste di intervento da parte degli users, dei grinzerini, come li chiamano, come sorcini? Grinzerini? Dottor, Cioè sono certi pezzi del cazzo. No, ferma, siamo in prima serata e ci ascoltano degli etero. No, pare che, detta così, pare che su Grinzer ci vanno solo le femminucce, cicci e pucù. Guardi che ogni tanto mi mandano certe foto penis. Dio mio, guardi, non c'entrano manco sullo schermo, che per aprirlo devo disturbare lo schermo del collega accanto in presentazione, com'è che si dice? In parallelo? Insomma sì, in parallelo, certe cotolette da 24 centimetri, in parallelo, mamma un po' capì, guardi, le ricerche naturalmente, insomma, chiedono, ecco, un certo impegno, insomma. In senso tecnico. Certo, in tutti i sensi, guarda, ci sono certe cefalone da mezzo chilo, da settetti, sono proprio tanta roba, mica, insomma. Sì, ho capito, non c'è bisogno che continui nella descrizione. No, c'è bisogno, guardi, mi creda, c'è sempre bisogno di... vabbè, comunque, insomma, bisogna lavorarle, ecco. Poi, certo, quando mi devo portare pure il lavoro a casa, che fatica, guardi. Il lavoro a casa? In che senso? Ma certo, scusa, sono anche una sex worker, una smart sex world out qui. Beh, tutta fa, ecco. Davvero molto interessante. Insomma, lei, come dire, cerca di utilizzare al meglio ogni risorsa di cui dispone e non fa differenza tra pubblico e privato. Possiamo dire che c'è una piena identificazione tra la sua vita privata e quella lavorativa? Identica io, ma come si permette? A chi? Gli ho detto che sono anche queer transit, ma guarda sto coso, No, e dico, scusi, identica a se stessa. Cusu. Identica a se stessa. Cusu. Senta, io sono soprattutto io sono diversa con l'H. Vabbè, comunque, insomma, anche a me stessa, certo. Sì, comunque possiamo dire che è una persona molto interessante. Ma grazie, lei è veramente super. Ecco, vede, guardi, mi è spuntata una gocciolina qua proprio sotto gli occhi. No, non la vedo, ma si commuove continuamente. Ma che è Giorgio, il massaggiatore della sauna, ha fatto. Sì, dobbiamo chiudere, il tempo esaurito. Stia bene, ci sentiamo. Ciao. Ecco, un'altra volta è sparito anche lui, va? Vai, vabbè. Pancho Piedra con Campo Triste, Johnny Remix. Thank you. ben trovato nel ministero del suono e della sessualità. Come possiamo aiutarla? Buonasera ministro, sto cercando di farmi un profilo su Grinzer, non so se conosce questa piattaforma. Mi chiede a quali categorie appartengo, cosa mi piace, mi chiede un sacco di informazioni, mi chiede chi sono, mi chiede se sono fetish, non lo so, ho problemi con le tribe, mi chiede di che tribe sono, non capisco, usano un linguaggio a me, sono nuovo nel settore, mi può aiutare? Buonasera intanto, e dico che intanto è piacere per me sapere che finalmente una persona che fa una transizione da uno stato ad un altro si trovi già con queste domande, che sono domande molto importanti, perché evidentemente nel mondo da cui lei viene questo tipo di parametri non vengono considerati, perché molto probabilmente le sfumature che si incontrano sono un pochino meno raffinate rispetto a quelle del mondo in cui lei evidentemente vuole immergersi. Quindi le applicazioni che lei sta incontrando servono per capire meglio qual è la sua, il suo gusto, la sua direzione, dove vuole andare a parare sostanzialmente per la ricerca di un partner o più partner, perché ovviamente nel mondo gay c'è sia la possibilità di andare con una persona sola piuttosto che più persone. Questo perché è un mondo molto più abituato alla promiscuità e diciamo alla risperimentazione sostanzialmente, meno canonico rispetto ad esempio al mondo etero da cui lei viene, mi sembra di capire. Sì, ha capito bene. Quindi lei vuole diventare semplicemente gay generico o ha delle ambizioni di specialità particolari? Non lo so, volevo partire da generico, però già mi chiedono molte informazioni. Sì, perché è chiaro. Mi hanno detto che funzionano, non lo so, hanno detto che funziona subito, però non riesco neanche a farlo, neanche a scrivermi. Il mio consiglio... Bene, mi dica. E quindi la qualità gliela consiglio sul nostro prodotto di punta del momento, che è un prodotto di nicchia. Sì, è un prodotto di nicchia e lo ricollega a suo nonno, che era cacciatore, ok? Provi a traslare il mondo, diciamo, il mondo che ha vissuto suo nonno, e quindi avere un cacciatore, e lo trasformi in un gay classico. Poi prenda un orso marsicano, ok, e lo trasformi in un essere umano a forma di orso, sostanzialmente un mutante. Ok, un mutante, quindi mezzo uomo e mezzo orso. Parametri richiesti dalle applicazioni arrivano a livelli quasi maniacali, nel senso sono discrimini enormi, che so io, pelo, non pelo, tipologia di barba, quindi se pizzetto, se moustache, se barba, se barbone, perché c'è anche il barbone talebano, poi il peso, che può variare. Ovviamente sotto i 100 kg non è vero amore. E poi discriminati sotto i 100 kg. Orsi discriminati. Poi da lì bisogna, poi dopo che so io, scegliere la tipologia di vestiario, la tipologia di cappelli usati, perché se cappello sì, cappello no. E poi nel mondo, diciamo, nella sezione dei gusti sessuali, ovviamente il parterre è immenso, infinito. Ok? Quindi a lei le chiedo, per esempio, le piace più qualcosa che si avvicini al soft sex, quindi ad esempio pratiche vanilla, pratiche pissing, oppure soft bondage, oppure arrivare a pratiche più estreme, quindi lì va bene. Ognuno poi dopo spazia, perché non ci sono sostanzialmente confini. Ok. Inizia a avere forse una mezza idea? Forse mi ha confuso. No. Allora forse mi ha quindi confuso. Il problema non è, però, che spiego male io o che sono troppe le variabili, e lei è completamente incapace di intendere di volere, un idiota sostanzialmente. Magari si applica anche tantissimo, ma non ce la fa, cioè non ce la fa proprio. Quindi, cioè, le faccio la domanda di rito: ha acceso il computer del suo cervello? Che da quello che sento dalla voce, lei probabilmente fa tipo arti marziali, comunque è coinvolto nel mondo della New Age, quella dopo gli anni 90. Ma lei sa tutto. No, non so nulla, sono un ministero del suono. Ministro tuttologo. Lei sa solo di suono e di sessuologia. Sì, no. Ok, allora, va bene, quindi allora vuole rimanere con noi, quindi le farò dei suoni che sono un po' un suono gay. Anzi, le dirò un po' più un suono bear, ok? Quindi più nell'ambito del posto dove la voglio portare io, va bene? Quindi le farò dei suoni bear. Ok? Prego. Questi sono i Saliva Commandos con Growing Up Poor Original Mix Afro House 2019. Mixed Grill A Brand New Wayo, Funk, Fast Time and Nigerian Boogie Band 79-83. Questi sono i Paradise Express con Dance, original mix. Ci ascoltiamo David Byrne con The Call of the Wild, merengue. Fly higher.

children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur tropical. Eclettismi spaziali subtropicali. Eclettismi subtropicali. I'm alla fine di questa puntata. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Aspettate, ho un messaggio da parte del ministro. E ricordati